si yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ricorderete sicuramente che noi qualche tempo fa ci occupammo di servizio militare, di leva militare, di ricordi di vita militare. Lo facemmo perché io, anagraficamente classe 1954, mi resi conto un giorno di essere uno dei pochissimi miei coetanei, se non forse l'unico nel mio ambiente di lavoro, che avesse fatto il servizio militare. Quindi, giocando su questa mia esperienza aliena, ho gettato l'amo al pubblico dicendo: ma voi cosa ricordate? Che esperienza avete avuto? Cosa è significato per voi fare il militare? È venuto fuori un insieme di ricordi meravigliosi, struggenti, molto legati a esperienze del periodo che fu. Ma la riflessione più importante che possiamo fare è che in realtà noi siamo fortunati perlomeno di avere la percezione che a 54 anni non abbiamo conosciuto della guerra se non i racconti dei nostri genitori, della guerra passata, se non professionalmente, per chi come me fa il giornalista, le cronache delle tante guerre, guerre vere, reali, cruente, in cui comunque il nostro esercito ha fatto parte anche con missioni, a volte definite missioni di pace, a volte definite missioni appunto di appoggio. Comunque sia, non abbiamo mai avuto la percezione sulla nostra carne di far parte di qualcosa che è destinato a operare con delle armi in mano in territorio di guerra, e questo in fondo è lo scopo primario di ogni militare, di ogni soldato. Quindi oggi vorrei riprendere, per un'occasione di cui poi vi parlerò e con ospiti questa volta qualificati, non parleremo soltanto in base ad esperienze di vecchi marmittoni, ma parleremo e cercheremo di fare un punto di quello che oggi è l'esercito, perché al di là della nostalgia, al di là dei ricordi, ci interessa anche capire qual è la realtà, che non è certo più questa. Squadra! Una volta per tutte, in questo battaglione il riposo si fa così. Gamba sinistra allineata a quella destra, moderatamente divaricate, d'accordo? Qui ci teniamo molto, chi se lo dimentica si becca subito 2 giorni di consegna. Squadra! Noi passeremo insieme circa 11 mesi. Questo fa parte del ricordo che ho registrato l'altra volta e vi pregherei di ritornare nuovamente a riporre le vostre domande e su quanto i modelli passati abbiano ancora attualità o appartengano a quella sorta di rassegna delle nostalgie dei tempi che furono, che servono comunque a dare testimonianza degli anni che sono passati con un periodo lungo, sterminato probabilmente, che non aveva precedenti in coloro che ci hanno preceduto nell'avventura terrena, di pace, di sensazione comunque i soldati servissero soltanto a fare i servizi nelle caserme, a fare le guardie al Quirinale, al Senato, per noi che viviamo e lavoriamo nel centro di Roma, o servizi che poco avessero a che fare con quella che è la missione primaria, il militare. Quindi 800240024, iniziate a far sentire qual è la vostra percezione di ciò che oggi sia l'esercito. Dal regolamento di disciplina militare, articolo 7, l'obbedienza al superiore deve essere pronta, rispettosa, leale. Questa è la compagnia seconda bis. A qualcuno potrà far sorridere questo bis, ma io gli dimostrerò che ha torto. Farò in modo che fra una settimana ognuno di voi sia orgoglioso di appartenere alla compagnia seconda bis, perché con me non sarete soltanto puliti, ordinati, inquadrati, efficienti. No, signore! Questo non basta. Voi vi distinguerete. Voi sarete assolutamente, splendidamente, incredibilmente massicci e incazzati! Compagnia seconda bis! Capitano Valeria Giannandrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Vedo che lei sorride. Lei ha avuto mai a che fare con ufficiali come questo? No, assolutamente no. Direi che le cose sono decisamente cambiate dai tempi a cui fa riferimento questo film, se non erro, sì. 365 sì. giorni all'alba. Certo, sì. Che raccontava una realtà che non è più quella che c'è oggi nella Forza Armata. Oggi parliamo di un esercito completamente professionale, che ha quindi delle competenze, delle capacità, degli addestramenti che sono completamente diversi da quello che era l'esercito di leva raccontato dal film in questione. Certo, delle caricature, insomma, anche durante la leva era difficile, credo, trovare degli ufficiali di quel tipo. Lei quando ha iniziato a fare il militare? Io ho iniziato esattamente nel 2000 con il primo concorso aperto al personale femminile. Questa è stata una delle innovazioni organizzative della Forza Armata, del sistema difesa. Quindi ho fatto il primo concorso aperto a personale femminile, a giovani laureati, e quindi ho avuto la possibilità di vincere e di entrare subito in questo nuovo mondo. Lei pensa che io mi sono congedato 20 anni prima che lei iniziasse a fare il militare, probabilmente nemmeno era nata o era appena nata, quindi io ancora provo, e questo segna anche fortemente, ahimè, il rammarico per l'età che uno si sente sulle spalle, però ancora un senso di sorpresa, di divertimento, di stupore a vedere una signora con le 3 stellette di capitano sulla spallina, che significava ai tempi qualcosa che metteva paura soltanto a sentirselo passare vicino, qualcosa che doveva naturalmente ricordarmi ogni momento la mia condizione militare di soldato. Saluto anche questa mattina un altro capitano, il capitano Matteo Tuzzi. Capitano, buongiorno. Buongiorno, che questa mattina ho convocato in questo studio, che è piuttosto atipico avere ospiti, perché proprio con voi volevo, ma con curiosità, non ne so nulla, ne so poco, ne so quello che mi obbliga a conoscere il mio mestiere, la mia professione, di come è veramente cambiato l'esercito. Io ancora provo, capitano Tuzzi, un profondo senso di disagio quando anche con molti miei colleghi parlo di servizi, interessi, operazioni, curiosità. Io sono molto curioso dell'aspetto tecnologico e mi rendo conto oggi che si sta muovendo anche in campo della difesa, dell'esercito, dell'organizzazione delle attività militari, un grande fermento tecnologico. Ieri ho visto 2 pagine sul giornale che parlavano di nuove figure professionali legate alla conoscenza del web, conoscenza delle nuove tecnologie, che sono strumenti di uso quotidiano per noi, sono gli oggetti con cui ci comunichiamo, ci troviamo amicizie, ci sentiamo la musica, ci giochiamo con macchine che ci fanno passare il tempo, ma in realtà per voi sono strumenti di lavoro. Ecco, è possibile farci capire, se si potesse sintetizzare, chi è il militare oggi, chi è il soldato oggi? Abbandonata questa idea di un anno sfortunato che tutti ci vendevamo l'anima ai politici del paese, ci andavamo a raccomandare dal prete, cercavamo lo zio che lavorasse in qualche, fosse maresciallo in qualche lontana caserma, perché per allontanare questo rischio, questo pericolo di perdere un anno di vita. Oggi la percezione che alle stellette la divisa è perfettamente diversa, non è una iattura da allontanare, ma è un'opportunità. Certo, è un'opportunità non solo lavorativa, ma soprattutto di acquisire e di imparare tramite un iter formativo iniziale di base e poi in base ai requisiti anche della persona, di poter essere impiegati nei vari scenari operativi, sia internazionali sia nazionali, dove il militare diventa veramente una pedina ormai essenziale non solo per condurre questo tipo di operazioni, ma anche perché acquisisce col tempo degli expertise, delle conoscenze che lo rendono sempre di più partecipe, sempre di più coinvolto nella macchina ormai delle calamità naturali oppure in quelle che sono operazioni internazionali all'estero. Ecco, da quanto è stata abolita la leva obbligatoria, che per noi era... Sì, la leva obbligatoria è stata abolita nel 2005. Sì, nel 2005. Chiedo scusa, non è stata abolita, ma è stata sospesa. Sospesa, e la differenza, esatto, è sostanziale. Quindi potrebbe tornare in ogni momento. Teoricamente sì, perché la norma costituzionale non è mai stata modificata. Quindi allora è stata sospesa la leva obbligatoria, sì. Quindi la famosa cartolina, i famosi 3 giorni, che era una ritualità che noi conosciamo bene. Certo. Ogni anno c'era la necessità del rinvio per chi facesse università, per molti studenti scapestrati come noi era l'esame obbligatorio, bisogna dare ogni anno, pensate quale era la preoccupazione. E veramente lo percepiva la nostra generazione come qualcosa di totalmente contro natura rispetto al nostro quotidiano. Io mi sono reso conto che quando poi in realtà ho fatto militare ho capito le ragioni. Era l'unica vera prima grande occasione che aveva il figlio del boom economico, il ragazzo cresciuto viziato, coccolato alla famiglia, con tutte le problematiche poi degli anni della politica esasperata, le difficoltà, ma nessuno di noi aveva mai staccato per un anno, con un periodo lungo, il cordone ombelicale con la propria famiglia. Ed entrava in questo mondo fatto di una rudezza a noi sconosciuta, dover dormire in delle lenzuola. Le sembrerà singolare a lei che ci sta dentro, vive un'altra vicenda, ma trovare improvvisamente innanzitutto la limitazione coercitiva della propria libertà d'operazione, quindi orari precisi in cui la giornata è scadenzata. Io l'ho visto, devo dire, come una grande e meravigliosa scuola di vita. Ma mi prenderà su questo, sarò fucilato alla schiena appena uscirò da questo studio, perché naturalmente queste cose non vanno dette, non si possono dire, significa essere incline a simpatie militariste come se fosse una bestemmia. Io non sono incline a simpatie militariste, non ho un particolare rapporto affettivo, però devo dire che per me è stato un momento formativo importante. Oggi invece come cambiano le cose? Chi viene e chi decide di fare questo tipo di carriera? Fa una scelta ben precisa. Certo, è sostanzialmente una scelta di vita. Dobbiamo distinguere però tra due categorie: coloro che decidono di fare concorsi per ufficiali o per sottufficiali e quindi fanno proprio questa scelta di vita di entrare nella Forza Armata e di stare tutto il periodo della loro vita lavorativa in questo contesto. E poi ci sono invece i ragazzi di truppa, quindi che decidono di entrare per un anno come volontario in ferma prefissata un anno nella Forza Armata e utilizzano questo anno di tempo per capire effettivamente se la vita militare è quella che fa per loro. Quindi sostanzialmente è un anno di formazione e addestramento, ma soprattutto un anno di preparazione. Il volontario in ferma prefissata un anno è questa nuova figura di soldato professionale che ha sostituito, anzi è subentrata, perché in realtà non possiamo parlare di sostituzione, è subentrata a quello che era il soldato di leva. Questo anno di Forza Armata è elemento necessario e indispensabile per poter poi rimanere attraverso concorsi interni o nella Forza Armata o poter effettuare concorsi presso le forze di polizia. Quando parliamo di forze di polizia intendiamo anche i carabinieri. Questo perché? Perché il legislatore ha ritenuto che l'esercito e anche la marina e l'aeronautica, ma dico di più l'esercito perché numericamente siamo di più, avesse le capacità formative e addestrative per preparare il nuovo personale. Quindi noi abbiamo 5 centri di reclutamento, centri di selezione su tutto il territorio nazionale, al quale afferiscono i ragazzi che decidono di aderire al bando di concorso. Abbiamo dei numeri estremamente alti. Devo dire che da quando è partito il servizio professionale, il sistema professionale, quindi dal 1 gennaio 2005 ad oggi, abbiamo avuto sempre una percentuale tra il 3, di un rapporto di 3-4 persone per posti a concorso. Per esempio, c'è molta più abbiamo richiesta. Una grandissima richiesta, sì. Guardi, per esempio nell'ultimo concorso per volontari in ferma prefissata un anno, che prevedeva 12.000 posti, abbiamo avuto circa 40.000 domande. Quindi la richiesta è enorme e lo stesso trend lo stiamo avendo anche per i concorsi per ufficiale e per sottufficiali. Per ufficiali, su circa 100 posti a concorso presso l'Accademia di Modena, abbiamo mediamente 8.000 domande l'anno. Per il concorso sottufficiali, anche lì una novantina di posti a concorso, abbiamo oltre 25.000 domande l'anno. Ecco, volevo sentire un attimo Pasquale. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo fare un appunto che comunque io, calcoli che ho fatto in militare nel 97, sì. E i tempi comunque erano già, come posso spiegare, cioè si lavorava, io ho fatto l'operazione a Sarno nel 98. Io ho fatto il terremoto di Avellino ai tempi del mio militare. L'alluvione di Sarno, sì. Però ecco, ci sono, infatti, la scuola, pensi che la scuola trasmissione a San Giorgio a Cremano, in cui avrei dovuto imparare il Morse, la trasmissione radio dicendo, l'ho fatta aiutando a costruire i villaggi per i terremotati. Eravamo impiegati in questo tipo di operazione, quindi ho perfettamente esperienza personale cosa significa Giusto. Occuparsi di queste cose in leva militare. Prego, avanti Pasquale. Giusto, niente, volevo sapere una cosa, ma com'è che tutti questi militari, cioè oggi che sono nelle caserme, non credo che siano tutti, come diciamo noi, imboscati, maggior parte. Vabbè, la sua domanda, dice, ma è lecito chiederlo. Lei pensa che nelle caserme continuano a rimanere gli imboscati, che era una classe privilegiata di cui anche io ho fatto parte quando riuscì a imbucarmi in fureria. Risponda al capitano Matteo Tuzzi, lei riesce a dire la percezione di questo nostro ascoltatore, che oggi tanti militari ma corrispondono a tanti ministeriali, quindi alimentiamo il novero delle persone comunque stando lì e non hanno nulla da fare. Ma io ho sentito che il nostro radioascoltatore ha citato Sarno nel 97, sì. Io voglio ricordare che le Forze Armate, in particolar modo l'esercito, comunque sia, hanno dispiegato sul territorio dell'Aquila oltre 1500 persone. Quindi parlare di imboscati, ecco, al giorno d'oggi risulta un po' difficile quando abbiamo centinaia di persone nelle missioni internazionali. Questo diciamo, perché uno dice persone. Se non c'è guerra, tutti questi soldati a cosa servono? È la lettura più diciamo superficiale. Possiamo dire cosa stanno facendo in questo momento anche in altri territori, in altri scenari? Certo, no. Diciamo, fondamentalmente noi delle Forze armate vengono impiegati per creare, per dare sicurezza in un territorio che è stato destabilizzato per qualche evento esterno. Soprattutto abbiamo visto il Libano, che ha avuto questo recente conflitto, ma già la leva dell'82 ha visto la missione Libano con i ragazzi di leva, e quelle per certo non erano persone imboscate, una missione durata più di un anno. Abbiamo adesso, e quando si nuovo... va a questi posti, uno ha l'impressione molte volte, un po' perché i servizi molte volte, ma perché è logico, un giornalista che segue delle vicende intere di operazioni militari non è che può far vedere esattamente com'è la situazione, ma ci può dare il metodo esattamente qual è la situazione? Quando si va in questi territori, anche in missioni di tipo umanitario, tipo pace, comunque sono missioni in cui si sta con le armi in mano e si rischia comunque la vita. Ma io ricordo la mia prima missione che ho fatto in Afghanistan dal giovane tenente, dove chiaramente ero emozionato di partire, anche forse un po' incosciente di sapere cosa doveva dall'altra parte, ovviamente formato col leader del stadio previsto, no? Quindi un certo leader background di base sicuramente c'è. Ovviamente i nostri sentimenti, le nostre percezioni poi si vivono soprattutto sul posto che si va a visitare. L'Afghanistan, che è un territorio dove il colore verde forse manca forse troppo, perché è un posto, una nazione molto desertica, ecco, a me ha lasciato quella percezione incredibile nella mente. Un territorio arido. Un territorio molto molto arido, dove però noi abbiamo fornito sicuramente sicurezza, supporto alla popolazione, sono dei concetti importanti che vanno poi sviluppati singolarmente in tantissime attività. Ovviamente dal punto di vista sicurezza noi parliamo di pattuglie sia piedate, motorizzate, che seguono non soltanto i VIP che vengono in visita, come si può pensare, ma danno anche sicurezza alla popolazione locale, quella di Kabul, quella dei mercati generali che ho vissuto e sono rimasto affascinato al mercato generale che si trova a Kabul, per esempio. Noi dobbiamo però sfatare un grosso pregiudizio. Dare sicurezza significa avere delle armi efficienti in mano, saperle usare, e questo significa dare sicurezza. È inutile che tutti vorrebbero comunque qualcosa che ci faccia stare tranquilli, ma questa tranquillità si presuppone possa essere basata, magari, ne so, sul convincimento psicologico, su mettersi il naso da pagliaccio e far sorridere. La sicurezza si dà con le armi in mano. Chi ha le armi in mano deve essere capace, comunque ben addestrato, di saperle usare. Ma sicuramente sì. Ovviamente le forze armate hanno le armi, questo è un concetto di base, ma chiaramente noi lo utilizziamo come in primo modo per difendere noi stessi, difendere il mandato che ci viene assegnato, quindi è uno strumento principalmente di difesa. Ovviamente andiamo in posti dove ci sono delle ostilità presenti, dichiarate o a volte non dichiarate, ma comunque sia il nostro lavoro è un lavoro fatto con le armi, ma io ovviamente che sono ben addestrato come i miei ragazzi a sapere utilizzare le armi, sappiamo benissimo quali sono le regole di ingaggio da seguire e quando utilizzarle. Capitano Valeria Gianandrea. Sì, volevo semplicemente dire, rispondendo al nostro ospite, che cosa fa l'esercito oggi. L'esercito è una risorsa fondamentale per il sistema paese, perché è uno strumento pronto, affidabile, flessibile, che può essere impiegato in ogni contesto. L'abbiamo visto per le emergenze sul territorio nazionale, vorrei parlare sia della questione della sicurezza sanitaria, se ne è parlato, ma anche per la sicurezza, certo, nelle e città, anche per, cioè, la sicurezza nelle strade, nonché tutto l'apporto, come stava dicendo prima il collega, riguardo ai terremotati abruzzesi. Quindi è proprio uno strumento che ha il paese e di cui il paese può usufruire ed utilizzare come meglio crede. Uno strumento capace di agire su ogni fronte, proprio perché è organizzato in una maniera efficiente, efficace e con una catena di comando e controllo. Qui sto parlando un po' in termini tecnici, però è questo che permette di avere una reazione immediata. Sa perché trovo importante che lei mi dica questo? Perché la mia generazione è cresciuta con una percezione diversa. Lei immagini, non può immaginarlo perché non era ancora nata, ma l'ho fatto. Cos'era fare il militare in leva obbligatoria? Significava entrare in un meccanismo che si aveva l'impressione che servisse soltanto a mantenere in piedi le caserme e a fare le guardie. Ci ha dato un armamento che chiaramente era obsoleto, di cui sappiamo pochissimo. Io ho sparato 3 colpi in tutta la mia naia, capito? Il resto del tempo ho fatto le guardie col fucile scarico. Questo, di fronte a questa cosa qui, noi avevamo la percezione che fosse un grande carrozzone totalmente inutile, che dovevamo subirci come una sorta di dovere di cui non avevamo percezione. Se oggi è cambiato questo, secondo me è importante farlo capire, è importante dirlo, perché io lo sento, che percepisco che esiste ancora questo senso di forte pregiudizio, perché nessuno di noi ama la guerra, nessuno di noi ama le armi, nessuno di noi è portato verso la violenza. Ma pensare comunque esistano una serie di nostri concittadini, che sono i nostri parenti, i nostri figli, i nostri amici, che fanno questa scelta, non è una scelta per compiacere i loro primordiali istinti bellicosi, così la vedo io, perché vedendo avanti questa graziosa signora non mi viene da pensare che nella sua vita da piccola giocasse a fare i soldatini, capito? Però evidentemente è qualcosa che è necessario, serve e dobbiamo come tale elaborarlo. Esatto, è necessario. Non creda che a noi come soldati in primis piaccia fare la guerra, assolutamente, anche perché noi rischiamo la nostra vita. Certo. Se noi rischiamo la nostra vita, la rischiamo per degli ideali e la rischiamo per il nostro paese. Quindi esattamente direi l'opposto. 800240024, oggi stiamo parlando di servizio militare, di leva militare, parliamo di esercito, anche perché tra pochi giorni proprio si ricorderanno i 148 anni dell'esercito italiano, quindi è giusto che lo diamo nella sua interezza l'informazione su quello che oggi è il significato di essere militare, di essere soldato. Io sono convinto che esista una sorta di vuoto informativo, perlomeno di vuoto di percezione comune e pubblica rispetto a quello che è la vita militare, quello che è il ruolo dell'esercito. Noi abbiamo vissuto un momento molto particolare della nostra vita in cui fare il servizio militare equivaleva perdere un anno di vita, quando i pochi tra noi che poi entravano, approdavano nelle caserme italiane, avevano l'impressione che questo pregiudizio sia stato avvalorato dal fatto si stava un anno lì a imparare a marciare, a rifare il cubo che era la nostra branda, a fare dei servizi di puro mantenimento delle caserme. Poi a un certo punto non se n'è più parlato, non si sa più cosa sia accaduto. Si vedono i soldati, si legge dei soldati, si guardano servizi militari in fronti di presidio, di combattimento, anche lontani dal nostro paese. Si invoca la presenza dei soldati sul territorio quando abbiamo paura per la nostra sicurezza. Si vedono divise militari improvvisamente apparire nei luoghi laddove c'è un grande disastro naturale. Ma cosa ci sia dietro a questa organizzazione? Forse vale la pena di approfondirlo, anche perché la mia idea è che la percezione generale del pubblico che mi ascolta sia esattamente questa. Anno 1981, terzo 81, in quel del mitico del Bligny, quei bei corridoi, quelle belle camerate con la densa sui vetri che la mattina raccoglievamo secchiate e non capivamo se era una perdita d'acqua, ma ahimè era il nostro vapore acqueo che condensava. Quella piccola palestrina dove io facevo l'allenatore di pallavolo, perché ho fatto l'allenatore di pallavolo, quella piccola palestrina è quel mitico alzabandiera di tutte le mattine che ci faceva gridare il duro, se si può dire, anziché lo giuro. Un condensato di ricordi, alcuni salaci, alcuni teneri di servizio militare, poi hanno avuto magica espressione in tutta una narrativa di film di genere, che comunque raccontavano un aspetto di quella che era la vita militare nell'arco di tempo che va dal dopoguerra all'esplodere del boom economico, al passaggio attraverso gli anni di piombo, fino ai placidi donisti anni 80 e fino ai giorni nostri. A quei tempi c'era Pertini Presidente della Repubblica, Savonese, noi pensavamo di essere così meglio considerati e invece niente. Tutte le volte che arrivava Pertini a Savona schieravano il plotone dei più belli ad aspettare che scendesse Pertini dalla macchina, dopodiché rientravano e quel giorno, ahimè, si faceva festa in caserma, per modo di dire. Angela Calvini, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. So che ti stiamo dando dei fremiti di piacere questa mattina. Beh, mi ricordi i vecchi tempi quando sono cresciuta anche in caserma, prima come figlia di papà generale, e quindi ho visto tutto la leva, ho conosciuto tutti i ragazzi, i miei coetanei, anche quando ero più piccolino ho avuto al posto della tata un soldato, queste cose qua. Però Angela Calvini, lo ricordo perché ci ascolta già un personaggio noto, analizzato nella precedente trasmissione, è quella che noi sintetizzavamo con una lettura superficiale, banale, anche molto maschilista, la figlia del generale. In realtà è un capitano della riserva, selezionata appunto per fare questo ruolo, e anche giornalista. Tu esattamente, spiegami bene, io ti conosco come mia collega dell'Avvenire, ma in realtà tu hai una doppia vita, so che hai una divisa da capitano e ogni tanto prendi la valigetta, vai in caserma e spiegaci cosa fai. Esattamente, allora diciamo che la figura della riserva selezionata è una figura abbastanza nuova, io sono diventata capitano della riserva selezionata nel 2004, alias nella vita normale continuo a fare la giornalista, poi nel frattempo ho partecipato ad una selezione insieme ad altri colleghi che si occupano che sono ingegneri, medici, avvocati, insomma tutte persone di cui l'esercito ha bisogno, degli cosiddetti specialisti funzionali, che vengono a sopperire, soprattutto in missione ma anche per altre attività in Italia, a diverse esigenze. Ma tu in missione a cosa servi, Angela? Allora, ma in missione per esempio potrei servire, io per adesso ho fatto delle cose in Italia, apro una parentesi, per adesso ho scritto dei libri di storia militare, un libro sul palazzo. Ma ti occupi di comunicazione? Di comunicazione e di cultura e di eventi culturali. Quindi ti imboschi praticamente. Ma che mi imbosco? Io faccio capire quello che succede dall'altra parte. Oddio, potrei sempre partire in missione, attenzione. Cioè... Ma sei addestrata te come un qualsiasi militare? Sì, sì. Sì, sì, abbiamo fatto un corso di addestramento alla scuola di applicazione di Torino e di recente, proprio a dicembre, sono andata a fare un corso della NATO a Motta di Livenza, un corso per, si chiama CINIC, cioè cooperazione civile militare, cioè una figura come per esempio un giornalista, uno che si occupa di comunicazione, può portare, come dicevano prima i colleghi, anche un contributo anche alla pacificazione, nel senso che non si fa solo con le armi ma anche con la ricostruzione e con la comunicazione sul posto di quelle che sono, diciamo, le prospettive di sviluppo concrete anche. Ecco, cioè... già mi dici esattamente, io penso che questo sia proprio il tuo compito, cosa accadrà in questi giorni in occasione di questo 148esimo anno dell'esercito italiano? È una data importante? È molto importante perché appunto 148 anni fa l'esercito, l'armata sarda si trasforma in esercito italiano, finalmente in esercito unitario, dando poi il via anche a un'unificazione di tutto il paese dal punto di vista sociale. Quello che accadrà... Perché era la grande occasione dell'Italia unita di sentirsi un paese unico, quando si faceva la leva tutti assieme, improvvisamente si univano le varie lingue del paese, che ancora è qualcosa di molto difficile a considerare un'unità unica, no? Esatto. Anche guarda, scrivendo questi libri di storia patria, poi questo l'ho potuto anche approfondire e mi piace raccontarlo, perché diciamo che l'esercito di per sé è fatto di uomini, è fatto anche di cultura, di storia vera, concreta, per cui mi sembra che sia un contributo proprio importante. Diciamo che in questi giorni, perdonami, a partire da nelle varie città d'Italia, ma da Roma, poi io ti posso parlare per Milano, ci saranno dalle celebrazioni, come dire, religiose, per esempio a Milano, a Sant'Ambrogio, si terrà una messa la mattina del 4 maggio, poi ci saranno delle parate militari, dove le associazioni d'arma, anche quelle dove ci sono gli ex militari, i nostri simpatici ottantenni, settantenni, anche che hanno dato un grande contributo. Ecco, già poi adesso mi serve proprio veramente in coscienza, da collega, da amica, mi spieghi come mai nella comunicazione di quello, adesso stai parlando di un aspetto storico, celebrativo, commemorativo, sono le manifestazioni, sono venute a vedere in tante altre occasioni, ma perché c'è questo vuoto di percezione di cosa sia l'esercito? Fino agli anni 70, primi anni 80, era qualcosa che veniva considerato come l'aspetto vessatorio, il pericolo della militarizzazione del paese, ti ricordi? Il soldato era visto come qualcosa a cui ci si dovesse guardare. Certo. E c'era anche questa sorta di fastidio personale di dover partecipare a qualcosa che non apparteneva alla nostra cultura, al nostro modo di vivere, a quello che a noi interessava fare. Il passaggio è quello che adesso stiamo cercando di far capire, che è un passo secondo me che ci costa anche in popolarità, perché ancora parlarne significa quasi cedere a questa sorta di nostalgia per l'autoritarismo, qualcosa del genere. Tu come collega, come giornalista, percepisci ancora questo senso di fastidio nel parlarne in generale, nell'opinione pubblica? È qualcosa che io sento proprio perché datato nelle opinioni, nell'età? No, lo sento sia come giornalista sia come capitano della riserva, per questo a volte servono dei giornalisti che però se non può addentro nei meccanismi della faccenda, perché in realtà l'esercito è molto cambiato, come avete detto questa mattina, è diventato un esercito di professionisti, di persone preparate, che oltretutto, diciamo, tutto è cambiato da quando sono iniziate le missioni all'estero, per cui in realtà c'è un impegno veramente concreto, però molti non conoscono, forse anche perché in passato, lo ammetto lo stesso, l'istituzione militare è stata molto chiusa nella comunicazione. Quindi è importante anche il ruolo che farete. Capitano Tuzzi, allora, velocemente, vediamo se riusciamo a far capire com'è cambiato. Io ho detto tutto il lato dell'esperienza nostalgica del passato. Oggi cosa consiste l'addestramento? Ma oggi c'è un addestramento di base che poi si unisce col tempo a un addestramento specialistico. Quello di base è chiaro, io ricordo il concetto filosofico che forma e sostanza devono essere un tutto insieme. Ecco, nell'esercito anche è la stessa cosa. Quindi si impara la forma con un addestramento di base, sia nel sapersi comportare in quanto militare, è un professionista al giorno d'oggi, quindi fa parte di un'organizzazione professionista, a sapersi comportare, a sapersi relazionare sia con i propri colleghi, sia col mondo esterno, quindi col mondo civile, ed imparare le prime, i primi rudimenti di topografia, di arte militare, quindi tutto ciò che riguarda un addestramento di base. Per passare poi a un addestramento specialistico, io faccio parte del Genio, quindi i miei ragazzi dopo un addestramento di base iniziano con gli addestramenti singoli per diventare elettricisti, idraulici, carpentieri, quindi tutto ciò che adesso noi stiamo tra virgolette esprimendo anche all'Aquila per poter urbanizzare, ultimare i lavori di urbanizzazione dei campi, dei vari attendamenti che sono nati in questi giorni per il sisma Abruzzo, in Abruzzo. Quindi ecco, è un addestramento che tende a specializzare i miei ragazzi, ma anche noi ufficiali sicuramente, nella parte teorica, per poterla poi consolidare una parte pratica, non soltanto presso le scuole come la scuola del Genio in questo caso, ma sul terreno dove si incontrano quelle difficoltà che soltanto un'operazione, soltanto un impiego reale sul terreno può, essere, può fornire, e a saper risolvere queste problematiche che si presentano. Prego. No, devo lasciare un attimo la linea all'informazione del traffico. Mi viene da pensare che essendoci adesso un redderazione, un luogo in cui poi in realtà la specializzazione ha modo di esprimersi veramente concretamente in queste tante occasioni, cade un pochino quell'impressione che avevamo noi dell'antica generazione, che si andava a fare delle cose che poi in sé non ci lasciavano nulla di interessante. Io, un po' perché toccato all'esperienza del terremoto, ma ricordo che la mia scuola trasmissioni, ancora operavamo su vecchie radio americane della Seconda Guerra Mondiale, le ricordo con grande nostalgia, ma l'idea era quella che comunque non avremmo mai usato quel tipo di specializzazione per qualcosa di utile. Oggi lei invece mi conferma che il fatto che poi ogni giorno siete chiamati a rappresentare e a dare credito sul territorio di quello che avete studiato e immagazzinato come esperienza, che le cose siano cambiate. (800) 24 0024, abbiamo subito Damiano che deve parlarci della sua esperienza di vita militare. Damiano, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto complimenti. 34 anni, quindi lei è giovane, lei appartiene già alla nuova leva. Sì, diciamo così, anche se ho fatto il servizio militare all'età di 19 anni, sicuramente mi ha segnato, perché comunque è un'esperienza abbastanza forte, la leva era ancora obbligatoria, però lo consiglierei a tutti quanti i giovani, almeno 3-6 mesi di servizio militare, quello vero, che facciamo comunque un pochino aprire gli occhi e staccarsi dalla mammella di casa, che secondo me è già fondamentale. Sì, questo era una delle cose che ho portato a dire all'inizio della trasmissione, era perlomeno in un'altra generazione, ma penso che oggi lo sia ancora più radicalizzato questo concetto, l'unica grande occasione coercitiva, quindi reale, da cui non si poteva sfuggire, ma di cui la gran parte delle persone riuscivano facilmente a sfuggire, di avere questa sorta di esperienza di vita. Era l'unica vera grande iniziazione alla vita adulta che aveva un cittadino italiano di sesso maschile possibile. Oggi non c'è nulla del genere istituzionalizzato, perlomeno. Prego. Ma io ricordo una cosa: quanti politici italiani possono dire oggi che hanno fatto il servizio militare? Non ho dati statistici, secondo me non sono moltissimi, onestamente. No, sono anche meno, sono meno che pochi, diciamo che si contano, penso, su due mani, non di più, e questo è già significativo sulla nostra classe politica, comunque sia. Guarda, io non voglio qui fare la verginella, io ho fatto i salti mortali per cercare di non farlo militare, poi mi è toccato. In realtà uno, di fronte al fatto di ero vicino alla laurea, mi stavo per lavorare tutto, di perdere un anno, si dice perdi un anno di vita, quindi ci si provava a non farlo, anche perché per molti era facile. Poi devo dire che non rimpiango di averlo fatto. Grazie Damiano. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Angelo, la sto ascoltando. Niente, io stavo parlando per me, io sono un ex volontario. Ma lei cosa c'ha, un viva voce, Angelo? No, per cortesia, lo tolga, parli vicino al telefono, se sentiamo un alone è molto brutto sentirlo, se mi fa questa cortesia. Ecco, adesso... dicevo, io ho fatto il volontario al 187° reggimento Barra di Chissi, e niente, ho fatto anche delle missioni operative, sono stato a Timor Est, non so se qualcuno si ricorda Timor Est. Sì, adesso sentiamo qua, i miei ospiti sicuramente sanno di cosa si tratta. Riguardo il servizio in sé per sé, all'epoca si faceva un grande rumore sul fatto che poi, una volta smesso di fare il volontario, c'erano dei posti riservati in vari concorsi statali e anche nei vari corpi. Io ad esempio ho fatto la domanda nella forestale e molte altre domande, e col tempo mi sono accorto che questa cosa non era vera, infatti non c'era proprio la... non c'era nessuna voce che... Ecco, sentiamo se il capitano Valeria Giannandrè su questo problema che pone lei, che mi sembra molto specifico, ha qualcosa da aggiungere. Allora, sì, i nostri professionisti in effetti restano da noi a tempo, possiamo dire a tempo determinato, perché dopo il primo anno di volontario in ferma prefissata un anno, se superano la selezione diventano volontari in ferma prefissata a 4 anni, però non è che abbiano certezza di passare in servizio permanente. È anche vero però che sono state organizzate come Ministero della Difesa, d'accordo anche con altri ministeri, il Ministero della Difesa ha organizzato un dipartimento che si occupa proprio del reinserimento dei volontari congedati senza demerito. È una direzione generale del Ministero della Difesa. Cioè loro si sentono come dei precari, mi sembra aver capito. Cioè precari, è un servizio che non è effettivamente un servizio a tempo indeterminato. Certo. Il passaggio per volontario in servizio permanente c'è, ma è numericamente inferiore, cioè i posti sono numericamente inferiori a quelli che sono i ragazzi che prestano allora servizio a tempo. Ci sono delle selezioni in base certo, ai punteggi, ci sono immagino. Delle selezioni in base a titoli e in base anche alle note caratteristiche che i vari ragazzi hanno chiaro, riportato. Bene, insomma, no, è chiaro che sono i migliori quelli che poi transitano in servizio permanente. Anche come penso sono in qualunque settori in cui non è che si possa, diciamo, usare criteri che non sono quella della massima efficienza. Certo, perché, certo. Se per quello che ho imparato io, ogni militare poi diventa l'anello debole responsabile di tutta la catena, quindi non indubbiamente è... si lavora in squadra e tutti quanti devono avere le stesse caratteristiche, perché ognuno si deve fidare del compagno che ha a fianco, sapendo che ha lo stesso addestramento e la capacità di proteggerlo in ogni situazione. Però a parte questo, dicevo, il Ministero della Difesa ha realizzato dei protocolli d'intesa con associazioni, con enti, per favorire appunto questo reinserimento, e ci sono anche dei concorsi riservati presso le pubbliche amministrazioni. Questo è vero, ci sono dei concorsi riservati, però è anche vero che i concorrenti sono tanti, quindi io mi auguro che il ragazzo che ha telefonato riesca a vincere uno di questi concorsi. Quindi, mi scusi, capitano, allora, rispetto a quello che dicevo poco prima, io tra la mia percezione epidermica, magari frequentando una classe di persone che affondano le proprie radici culturali in epoche in cui era vivo un pregiudizio, non è che poi il generale, il senso, il sentire del paese sia così distante dalla percezione esatta di quello che oggi è come opportunità all'esercito. Sì, in effetti è proprio così, perché noi abbiamo avuto modo di vedere dei sondaggi che danno l'esercito italiano tra le prime istituzioni del paese, proprio come gradimento, come atteggiamento, come impegno per il paese, e questo è stato per noi una grossa soddisfazione, anche perché, ricollegandomi a quello che diceva l'Angela Calvini, è vero che prima l'esercito non aveva necessità di parlare all'esterno, perché non aveva necessità di reclutare, i ragazzi venivano da soli, i giovani con la leva entravano da soli. Con il cambiamento organizzativo, che tra l'altro è un cambiamento che è avvenuto in brevissimo tempo, e questa è veramente un caso nella scienza delle organizzazioni, con questo cambiamento organizzativo che si è sviluppato nell'arco di 3 anni, di 3-4 anni, siamo dovuti passare da un modello non comunicativo ad un modello comunicativo, per cui è stata realizzata in realtà tutta un'organizzazione volta a comunicare, a far conoscere la Forza Armata. Che è anche funzionata quindi la comunicazione. Se voi avete un esubero di sì, richieste rispetto... Obiettivamente il nostro modello organizzativo dal punto di vista della comunicazione ha funzionato e sta continuando a funzionare, perché come le dicevo uno dei sensori sono appunto le domande, le richieste di reclutamento che arrivano, e sono veramente elevate su tutti i fronti, su tutti i vari tipi di concorso. Questo come si è organizzato? Si è organizzato creando su tutto il territorio nazionale dei centri degli uffici comunicazione, che hanno il compito di linkarsi con tutto il territorio, con tutti gli organi formativi e informativi del territorio, contatti per esempio con le scuole, con i centri di associazione. Noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani per quello che è l'attività di reclutamento, e i risultati si vedono, ovviamente. Ecco, si sento vedono velocemente proprio una battuta. Nicola, che è un ascoltatore che sta in ascolto e ci sta ascoltando, lei sì, deve dare un piccolo ricordo della sua esperienza militare. Anch'io devo dare, buongiorno a tutti, innanzitutto un piccolo ricordo. Io lo feci nell'84, i primi 3 mesi a Nocera Inferiore, in una grande caserma, come allievo cuoco, per questa grande capacità che aveva l'esercito di assegnarti compiti, io sono elettrotecnico, per i quali tu non eri preparato, ma comunque lo vedo, anzi forse lo sono di poi, però, ma comunque è stata una grande palestra anche per me, come per molti ho sentito, la prima grande esperienza che mi ha dato una visione d'insieme che è il nostro paese. E premetto, anch'io ho fatto tutti i salti mortali per evitarlo, ma oggi lo ricordo con tenerezza prima di tutto. E insomma, mi viene da pensare che è una cosa alla quale, insomma, in un certo senso doveva rimanere obbligatorio questo servizio, secondo me, perché... Però, insomma, capisco il suo punto di vista e in parte il condivido pure, ma mi sembra che in conclusione di questa trasmissione abbiamo capito che questo passaggio che si è reso necessario è stato fatto in tempi velocissimi, però ha portato dei risultati senz'altro positivi. Tutti percepiscono comunque quella che è la vita militare come un'opportunità a cui si può accedere se si vuole accedere, e con anche grandi margini di difficoltà accedere, visto che ce ne sono tanti che vogliono farlo, e come qualcosa si sta specializzando, non è più quella nostalgica, un po' sgangherata idea che abbiamo di fare il militare come un anno. Proprio una battuta, stiamo chiudendo, capitano Gianandrea. Sì, proprio alla luce di quello che le stava dicendo adesso, vorrei ricordare che circa l'85% del personale che è impiegato in attività al di fuori del territorio nazionale fa parte dell'esercito italiano. Questa è un'ulteriore dimostrazione delle nostre capacità operative. Grazie allora al capitano Gianandrea, al capitano Matteo Tuzzi, e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0.